Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Certo, siamo sempre per più flessibilità, ma per noi il riferimento è ciò che ha scritto nella comunicazione la Commissione il 13 gennaio del 2015. Hic manebimus optimes. Optime. Che il mio inglese si può discutere, il francese si può discutere, il latino no. Beh, forse allora si può discutere anche quello, cari ascoltatrici e cari ascoltatori. Parlava Renzi oggi, evidentemente disteso e anche un po' emozionato nella conferenza stampa dopo il vertice col commissario dell'Unione Europea Juncker. Pare che ci siano stati abbracci, reciproci complimenti, quindi le tensioni dei mesi scorsi forse sono un po' affievolite. Poi ne parleremo anche nella ricostruzione della giornata e poi magari dopo anche nel bilancio politico della settimana, nel quale ovviamente qual è la notizia di primo piano nel bilancio della politica di questa settimana, politica italiana, naturalmente intendo, e sono le unioni civili, il disegno di legge che ieri è passato, il disegno di legge Cirinnà, con un primo sì al Senato dopo tanti tormenti, veramente un cammino estremamente travagliato. Con chi adesso è soddisfatto e chi non lo è, anche le associazioni gay sono spaccate e c'è chi reputa che la vittoria sia degli uni, degli altri. Insomma, comunque bisogna dire che effettivamente è un almeno primo passo che ha fatto uscire le persone dello stesso sesso, le coppie dello stesso sesso, dalla clandestinità alla legalità. Poi ci sono sicuramente delle cose che mancano, ma tutto sommato, diciamo, come dice qualcuno, meglio piuttosto qualcosa in meno che piuttosto. Però a proposito di questo, ci sono delle conseguenze. Al di là della soddisfazione o meno del risultato, succede che dopo che il gruppo di Verdini, Ala e Verdini stesso, insomma, hanno sostenuto il governo votando la fiducia, adesso c'è una forte lacerazione nel PD, perché si chiedono quelli della minoranza Dem, della minoranza di sinistra, ma a questo punto che partito siamo? Qual è la nostra identità se ci sostiene anche Verdini e gli ex forzisti a questo punto? E c'è Speranza, Roberto Speranza, che chiede un congresso il prima possibile proprio per ridefinire l'identità del PD. Secondo voi sarebbe necessario effettivamente questo congresso? Sarebbe necessario ridefinire l'identità, in crisi di identità, il Partito Democratico, e quale dovrebbe essere la sua identità? Verso dove dovrebbe andare? Quali contenuti, i valori? 349-238-6666, lo sapete per i vostri messaggi. Pagina Facebook di Effetto Notte per le vostre opinioni. Ho visto che avete continuato a scrivere su Unioni Civili, tantissimi commenti. Poi magari, se c'è tempo, visto che il tema è sempre di estrema attualità, ci torneremo, e anche perché forse per un po' non ne parleremo più. In senso positivo per alcuni, in senso negativo per altri, in senso positivo complessivamente. E quindi, mentre voi fate le vostre riflessioni, tanti sono i temi, io comincio a riassumervi come sempre la giornata. Juncker a Roma, disgelo tra il Presidente della Commissione Europea e Renzi, intesa sulla flessibilità ai migranti, ma Bruxelles richiama l'Italia, il debito pesa sulla competitività. L'omicidio di Regeni, secondo gli investigatori italiani, è stato ucciso per le sue ricerche da professionisti della tortura. Unione Civili, il sostegno di Verdini a governo lacera il PD, la minoranza Dem chiede un congresso del partito per definirne l'identità. Migranti, sale la tensione tra Grecia e Austria, il segretario generale dell'ONU preoccupato per le crescenti restrizioni imposte lungo la rotta balcanica. Le elezioni in Iran, affluenza record, in gioco il futuro di Rouhani. E per il calcio, la FIFA finisce l'era Blatter, Gianni Infantino è il nuovo presidente. Partiamo quindi dalla visita a Roma del Presidente della Commissione Europea Juncker. Dopo gli scontri, vi dicevo, degli ultimi mesi tra Roma e Bruxelles, pare si sia stata ritrovata una certa sintonia. Nel giorno del disgelo con la Commissione Europea, Matteo Renzi non rinuncia alle puntualizzazioni. Questo è il governo che più di ogni altro ha ridotto il numero di infrazioni da 119 a 83. Siamo per il rispetto delle regole. Il Premier parla anche dello scontro sulla flessibilità. Sul tema della flessibilità, per noi fa testo la dichiarazione della Commissione. Secondo punto fondamentale, la questione del piano degli investimenti. 315 miliardi di euro attivati con una leva importante. L'Italia è il secondo paese che ne usufruisce. Noi siamo desiderosi che questo progetto possa continuare. Renzi promette che il debito calerà già da quest'anno, ammette le polemiche con l'Unione sulle banche e sugli aiuti di Stato. Stop però all'austerità, chiede. Vogliamo il pareggio della vita prima che di bilancio, e attacca i paesi che si voltano dall'altra parte sui migranti. Noi non possiamo immaginare che ci sia una solidarietà monodirezionale. Detta in un altro modo, non è che la gente è solidale soltanto quando c'è da prendere i soldi europei e poi smette di essere solidale quando c'è da aiutare sui migranti. O si è solidali sempre o non si è solidali mai. Per Renzi l'Europa non deve essere dei numeri ma delle persone. Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Il y a entre la République italienne et la Commission européenne une large identité de vue. Tra Italia e Commissione europea c'è ampia identità di vedute. Sui migranti la condotta dell'Italia è esemplare e anche sulla flessibilità le posizioni non sono così distanti. Parole di elogio quelle di Juncker seguite da sorrisi e abbracci. Pace fatta dunque tra il Presidente della Commissione e il Premier Renzi. E le schermaglie dei mesi scorsi sembrano solo un lontano ricordo. In particolare l'ex premier lussemburghese loda l'impegno dell'Italia sui migranti. Se tutti avessero fatto come voi oggi i problemi europei sarebbero minori, così come lo sarebbero se tutti applicassero le decisioni della Commissione. Anche sulle questioni economiche i toni sono più morbidi. L'Italia, dice Juncker, utilizza giustamente la flessibilità prevista dalla Commissione, poi però torna a difendere la linea delle istituzioni di Bruxelles. C'è pas une commission qui prônerait les vertus d'une austérité stupide et aveugle. Non siamo tecnocrati a favore della shock austerity, siete un esempio, ma le raccomandazioni vanno seguite. Lodi infine all'Italia per il calo delle procedure di infrazione rivendicato dal Premier. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E a poche ore dal vertice di Roma, appunto di cui abbiamo parlato fino adesso, Bruxelles ha diffuso il rapporto sugli squilibri macroeconomici, secondo il quale questo rapporto, l'alto debito dell'Italia espone il nostro paese al rischio di diventare debole di fronte alle nuove possibili nuove crisi, al punto da poter addirittura contagiare il resto dell'Eurozona e rallentarne quindi la crescita. Ma il Ministero dell'Economia sottolinea che l'Italia è un paese più forte. Qualche progresso è stato fatto a Bruxelles, fanno riferimento alla riforma del mercato del lavoro, dell'istruzione e anche alle misure per le banche. Ma sotto altre voci, per esempio la tassazione sulla prima casa, il fisco, la razionalizzazione della spesa, sotto queste altre voci c'è margine per interventi e miglioramenti. Il problema di fondo resta sempre lo stesso, il debito pubblico molto elevato rappresenta un notevole onere economico e una fonte di vulnerabilità. Mettiamoci anche che la posizione competitiva rimane debole e ed ecco che gli squilibri sono serviti. La crescita resta al palo così come la produttività e anche in conseguenza di ciò lo stock dei crediti deteriorati grava sui bilanci delle banche, che sebbene siano oggetto di riforme appaiono più deboli rispetto a quelle estere. La spesa pubblica è il capitolo che vorrebbe maggiore attenzione, è sbilanciata a favore degli anziani, occorre attuare la riforma delle pensioni e procedere a una revisione dei costi a tutti i livelli. Detto tutto questo e considerata la centralità dell'Italia nella zona euro, la condizione economica del paese è fonte di potenziali ricadute sugli altri stati membri. In altre parole, restiamo deboli, troppo per crescere e reagire alle crisi e questo influisce negativamente sulla ripresa dell'Europa. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Riconosce comunque lo sforzo dell'Italia all'OCSE nel rapporto presentato al G20 iniziato oggi a Shanghai, segnali di ripresa che conferma anche il Centro Studi Confindustria. Il PIL italiano nel primo trimestre sta accelerando e nel 2016 i miglioramenti nel mercato del lavoro sosterranno la spesa delle famiglie, scrive il Centro Studi Confindustria. Ma se la tempesta sui mercati finanziari andrà avanti, potrebbe intaccare i fondamentali dell'economia, un rischio che a livello globale coinvolge tutti. Per questo, dal G20 di Shanghai, i ministri delle finanze e i banchieri chiedono ai paesi una strategia comune. Il coordinamento delle politiche macroeconomiche deve essere rafforzato, spiega il premier cinese Li, ma Berlino ribadisce di essere contraria a nuovi stimoli fiscali. Le prospettive di crescita sono incerte, rincara la dose l'OCSE, che dell'Italia apprezza i passi in avanti, sottolinea Padoan. Il rapporto dell'OCSE sulle riforme è molto incoraggiante, dice che il paese ha fatto molte riforme. Ci sono però troppi disoccupati, soprattutto tra i giovani, scrive l'organizzazione parigina, che al nostro paese dà anche un altro suggerimento: alleggerire il carico fiscale. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E a proposito di Confindustria, giubileo dell'industria per la prima volta in 106 anni, Confindustria sarà ricevuta in Vaticano dal Papa. Una giornata per riflettere sull'etica, sulla dignità del lavoro, sulla responsabilità d'impresa. Alla vigilia dell'udienza in Vaticano con Papa Francesco, alla quale parteciperanno 7.000 industriali di ogni settore, il giubileo dell'industria è iniziato oggi con il convegno dal titolo Fare insieme, un confronto tra il mondo dell'economia e quello della religione, tra i contributi quello di Romano Prodi. Io sono preoccupato che se noi non abbiamo una politica nuova andiamo verso quella che viene chiamata stagnazione secolare. Una pigrizia totale perché non viene data iniezione al sistema economico. Il cardinal Ravasi cita il premio Nobel Amartya Sen sull'impoverimento prodotto dal distacco dell'economia dall'etica. E anche di questo si parlerà domani, come ricorda il prefetto della segreteria per le comunicazioni della Santa Sede, Monsignor Viganò. L'incontro tra una storia fatta di valori, di investimento, di patrimoni familiari, di creatività italiana, con il Papa che ci richiama al fatto che tutto questo ha come bene centrale il lavoro e il lavoro della persona. Nazareno Orlandi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Parliamo adesso dell'omicidio di Giulio Regeni. Gli inquirenti italiani dicono che non è stato un omicidio legato alla droga, alla rapina, un fatto passionale, le varie versioni delle autorità egiziane. Il delitto è legato invece alle sue ricerche accademiche. È stato ucciso da professionisti della tortura, dicono gli inquirenti italiani. E sempre la Procura di Roma chiede una password alle società dei social network per ricostruire con la geolocalizzazione gli spostamenti del giovane. La prossima settimana poi ci saranno i risultati definitivi dell'autopsia effettuata in Italia. La questione dei migranti, sale la tensione tra Grecia e Austria dopo il mancato invito della Grecia a un importante vertice sui migranti. Oggi il governo ellenico ha rifiutato la visita della ministra austriaca. Intanto il segretario generale dell'ONU si dice preoccupato per le crescenti restrizioni imposte lungo la rotta balcanica. Anche su questo tema poi torneremo. Ma arriviamo alla politica italiana. Incalza il dibattito post voto sulle unioni civili e soprattutto l'appoggio di Verdini e del suo gruppo ALA. Lacera il PD con Roberto Speranza della minoranza Dem che chiede un congresso per definire l'identità del PD e la vice segretaria Serracchiani che replica: il gruppo di Verdini non c'entra nulla col PD, non ne fa parte e non ne farà mai parte. L'unico a tenere quotidianamente insieme il PD e Verdini è proprio Speranza, che insegue i propri fantasmi o forse più semplicemente le dichiarazioni dei 5 Stelle e di Forza Italia. Su questo torniamo tra poco. Voi continuate con i vostri messaggi, le vostre riflessioni su questo tema. È necessario, dopo questo sostegno di Verdini e dei suoi al governo, una ridefinizione di quella che è l'identità del Partito Democratico, secondo voi, con un congresso come per esempio propone Speranza? 349-238-6666 per i vostri sms o se no le vostre riflessioni come sempre sulla pagina Facebook di Effetto Notte, che è lì per voi giorno e notte. Intanto spostiamoci di nuovo sulle notizie dall'estero. Kosovo. Il ministro degli esteri Hashim Thaçi è stato eletto nuovo presidente del Kosovo. La terza votazione, quando era sufficiente la maggioranza semplice, Thaçi ha ottenuto 71 voti. Invece in Somalia ci sono 9 civili e 5 estremisti islamici che sono rimasti uccisi nell'attacco di oggi contro un albergo a Mogadiscio, rivendicato dal gruppo integralista filo Al-Qaeda Al-Shabaab. Lo rende noto la polizia somala. Torniamo con la cronaca di nuovo. In Italia due donne e un uomo sono state trovate morte in un'abitazione in località Fenil del Turco, in frazione di Rovigo. Gli investigatori accorsi sul posto ritengono di essere di fronte a un probabile triplice omicidio, forse determinato da motivi di gelosia. Le vittime sono una donna, la madre di nazionalità moldava e l'ex compagno della prima, originario dell'Albania. I tre sarebbero stati uccisi a colpi di pistola. Una novità per la scuola: sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale anche sul sito del Ministero dell'Istruzione i 3 bandi del concorso per docenti da 63.712 posti previsto dalla legge Buona Scuola, quindi direte interessati lo sanno. Per la salute invece dal 1 marzo la vecchia ricetta medica va in pensione e cede il passo a tablet e computer. Claudio Cricelli, presidente della Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie, è intervistato da Edoardo Sirignano. Tutti i farmacisti non avranno più bisogno di vedere il foglio di carta, ma andranno direttamente sul loro computer a richiamare questa ricetta emessa dal medico. Quindi uno si trova in Sicilia, anche se viene dalla Lombardia, il farmacista collegandosi trova la ricetta, la richiama ed eroga il medicinale. L'innovazione rappresenta un problema per le persone anziane? Addirittura semplifica la situazione, perché non solo non costituisce un aggravio, ma non costituisce nemmeno una complicazione. Chiaro? Adesso musica invece, anche questa notizia: le Spice Girls. Jerry Halliwell conferma la reunion per celebrare i 20 anni del gruppo, quindi presto le rivedrete insieme. Per la chiusura il calcio: Gianni Infantino, avvocato svizzero di origini calabresi, è il nuovo presidente della FIFA, vince con 115 voti e succede a Blatter. Oh, la notizia extra di oggi è questa: a Milano arriva il toilet bus, debutta a Milano il primo toilet bus in Europa, un bus, come volete dire, un vecchio mezzo ATM in disuso, riadattato come WC e con WC e lavandini, pronto a girare per la città e a posizionarsi nei luoghi che ospitano i grandi eventi e occasioni di richiamo. L'inaugurazione, proprio con la settimana di moda donna, da oggi fino al 28 febbraio, sarà alla Darsena, il porto del Naviglio Grande. Praticamente tra gli eventi già prenotati, praticamente una settantina in tutto tutto il 2016 che avranno questo bus con la toilette, la Stramilano, la corsa storica di Milano in zona Duomo, poi in zona Tortona per il Book Pride e il fuorisalone del Salone del Mobile, in corso Venezia per la Milano Marathon e poi per la Champions League allo Stadio San Siro. A bordo del mezzo, riconoscibile dal colore azzurro e dalla scritta Toilet e Bus, sono stati realizzati un WC e un urinatorio per gli uomini, due WC per le donne, un bagno attrezzato per i disabili dotato anche di fasciatoio per i neonati. Per i, diciamo, gli appassionati di numeri, il costo per riadattare questo bus in questo modo è stato di circa 75.000 euro, compreso il progetto e l'omologazione. Adesso invece, appassionati delle riflessioni sulla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666, vi dicevo appunto di questa lacerazione all'interno del PD dopo il sostegno dei verdiniani ieri al governo, al voto di fiducia, e quindi la minoranza Dem comincia a chiedere un congresso per dare, insomma, capire qual è adesso oggi l'identità del PD, qual è secondo voi o quale dovrebbe essere. Fabrizio dice: è semplice da spiegare, il partito degli opportunisti. Mentre Cristiano scrive: se penso ai libri sui quali mi sono formato, ai destini, alle esperienze che come un'onda paterna mi hanno avvolto, posso soltanto dire che questa realtà politica è assai meno della cenere di quella lunga meravigliosa tradizione. Enzo scrive sulla pagina Facebook: mi viene più facile dire cosa non doveva essere il PD, avrebbe dovuto far dimenticare la Democrazia Cristiana, il berlusconismo, la corruzione, il clientelismo. Poi invece mi sposto sul 349-238-6666. Simone dice: oggi mentre un governo di sinistra non eletto otteneva la fiducia coi voti decisivi di Verdini sulla riforma storica delle unioni civili, Mattarella era a farsi il selfie con il CEO di Amazon, in realtà era Instagram, e comunque nulla di male, si tengono buoni rapporti, il minimo che il Presidente della Repubblica, no? Non capisco, Simone, dove volevi che fosse. E poi Sebastiano dice: dalla proposta di Speranza, di Roberto Speranza, si capisce che non ha niente di più importante di cui preoccuparsi, citando la carta costa. Vabbè, dice, chi se ne frega. Poi problemi di identità, scrive un altro ascoltatore, possono sempre provare a rivolgersi al circolo, cercano sempre pagliacci, buffoni, eccetera, o sbaglio forse, un altro messaggio. E poi la viabilità: ma Speranza ci fa o ci è? Non va bene Verdini che è di destra, perché Alfano e compagnia che cosa sono? Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E ritorniamo insieme in pochi secondi praticamente, prima di addentrarci nel bilancio della politica della settimana con l'ospite che tra poco vi presenterò. Ancora i vostri messaggi sulla crisi identità del PD secondo la minoranza Dem, e quindi la necessità di un congresso dopo il sostegno dei verdiniani ieri al voto di fiducia, quindi al governo, e per qualcuno, diciamo, la realtà è che i verdiniani ormai fanno parte della maggioranza, ma il PD continua a negare i maggiori rappresentanti. E Gianni scrive al 349-238-6666: altro che Seconda Repubblica, è peggio di tutte le repubbliche, per fortuna che Renzi doveva rottamare la vecchia politica. Ulisse scrive: il PD è l'unione di culture diverse, giusto che si divida. Poi sulla pagina Facebook di Effetto Notte Roberto dice: ma non è altro che dopo le ennesime alleanze un centrodestra moderato non votato dagli italiani, cosa forse per alcuni di poco conto. Michele dice: è una cozzaglia di persone il PD che non hanno un'idea comune, univoca, nemmeno su temi classicamente di cultura progressista. Adesso però, prima di cominciare a parlare della politica di questa settimana, vi ricordo quali sono le notizie più importanti se non avete acceso puntualmente la radio alle 21. Disgelo Renzi-Juncker a Roma, intesa su flessibilità e migranti, ma intanto Bruxelles richiama l'Italia, dice il debito pesa sulla competitività. L'omicidio Regeni, ucciso per le sue ricerche da professionisti della tortura, dice la Procura di Roma. Gli inquirenti che dicono in realtà non c'è nessun legame del povero Regeni con gli 007, la droga non c'entra. Queste erano le varie versioni, diciamo, piuttosto fantasiose delle autorità egiziane, che pare che continuino poi i depistaggi. E poi Verdini che lacera il PD, la minoranza all'attacco, serve un congresso, e la vice segretaria Serracchiani replica: Speranza è come il Movimento 5 Stelle, insegue fantasmi. Migranti, allarme dell'Unione Europea, bisogna evitare una crisi umanitaria in Grecia, anche di questo poi parleremo. E poi l'Iran al voto, folla i seggi, in gioco il futuro del presidente Rouhani, e Infantino che è il nuovo presidente della FIFA. Quindi, come ormai più o meno tutti sapete, ieri, come si diceva, dopo mesi di tormentate discussioni, travagli, mal di pancia, insulti, speranze, colpi bassi, scontri, compromessi e figure non sempre, diciamo, edificanti, la legge sulle unioni civili ha ricevuto il primo sì dal Senato, perché poi passa alla Camera, anche se lì pare che dovrebbe avere il governo la maggioranza, quindi sono stati stralciati step child adoption, c'è bisogno di ripeterlo, ma è l'adozione all'interno di una coppia dello stesso sesso del figlio biologico dell'altro, quindi per il momento non c'è, ma già la senatrice Cirinnà sta presentando una proposta di legge perché a un certo punto arrivino anche queste, la possibilità delle adozioni. E poi è stato stralciato l'obbligo di fedeltà, che è stato oggetto di ironia da molti, la licenza di corna, la possibilità, libertà dei gay di poter tradire liberamente, invece diciamo da molti vista come quasi una mortificazione, un modo di sminuire anche la forza simbolica di un'unione di persone dello stesso sesso. In ogni caso, già ieri vi ho dato un po' un'idea del clima che si respirava in Senato prima del sì, prima del voto, ma poiché non siete sempre tutti presenti all'appello e ogni giorno, magari ogni sera, ci sono milioni di nuovi ascoltatori e ascoltatrici qui a Fetonotte, vi ripropongo alcuni passaggi di ieri, una serie di voci del Senato. Allora inizierei, ovviamente bisogna darle l'onore delle armi alla senatrice Cirinnà, che si diceva soddisfatta ma rammaricata contro il Movimento 5 Stelle, che dopo lo scontro che si era consumato nei giorni scorsi dice praticamente siamo un po' costretti a questo compromesso con Area Popolare Nuovo Centrodestra. Sentiamola. Nessuno, ripeto nessuno, si sarebbe aspettato che l'alleato che più urlava fedeltà nei confronti dell'impianto del testo spingesse nel cratere del vulcano un grande momento della storia repubblicana, che avrebbe visto partecipi forze parlamentari anche lontanissime tra di loro. Quindi c'era col Movimento 5 Stelle, e poi dice sì, sono contenta, è un passo importante, Renzi l'ha definito un passo storico, resterà nella storia, ha vinto l'amore, però dice resto con questo buco nel cuore, cioè lo stralcio della stepchild adoption, sempre la Cirinnà. Sapete comunque che lì l'unica cosa che manca nel maxi emendamento è che è un buco nella legge, un buco in questo Parlamento, un buco nel mio cuore, è lo stralcio dell'articolo 5. Alle accuse contro il Movimento 5 Stelle risponde la senatrice del Movimento Catalfo, che dice che in realtà ieri si sono celebrate altri tipi di unioni civili, anzi un matrimonio. Ciò che si celebra oggi nell'Aula del Senato non sono né le unioni civili né le coppie di fatto, ma è un vero e proprio matrimonio tra il Partito Democratico e Denis Verdini, fondato questo sì sulla fedeltà e sull'obbedienza di massonica memoria, in cui lo stesso Verdini pretenderà gli alimenti e Alfano l'assegno di mantenimento. E sempre dal Movimento 5 Stelle il senatore Airola, piuttosto duro, diciamo così. Avete tolto l'obbligo della fedeltà, quindi avete reso libere le corna. State attenti, perché questo invece sì, questo sì è troppo simile al matrimonio. E poi magari potrebbe risultare incostituzionale, come tutta questa schifezza che state per approvare. Andate a fanculo. Senatore, non le consento il linguaggio volgare in diciamo aula. Senza mezzi termini, anche la senatrice De Petris di Sella accusa il Movimento 5 Stelle, insieme anche il PD però. Il Movimento 5 Stelle si è assunto una grande responsabilità e con la sua scelta ha offerto sul piatto d'argento al Partito Democratico l'alibi per concludere un accordo a ribasso con chi sin dall'inizio ha lavorato per abbattere questa legge, a chi non ha perso occasione per offendere, insultare e cercare di umiliare tutte le persone interessate. E cosa dice però l'alleato di governo? Perché la De Petris poi aggiunge che insomma Renzi non voleva salvare il disegno di legge ma la maggioranza. Allora, a proposito di maggioranza, sentiamo Alfano con la sua frase, è stata molto criticata. Ha vinto il buonsenso, perché è assolutamente di buonsenso dare più diritto ai soggetti anche dello stesso sesso che compongono una coppia, una unione. Al tempo stesso l'istituto giuridico del matrimonio è ben distinto da quello dell'unione ed è stato un bel regalo all'Italia avere impedito che due persone dello stesso sesso, cui lo impedisce la natura, avessero la possibilità di avere un figlio. Abbiamo impedito una rivoluzione contro natura e antropologica che credo sia stato un nostro risultato aver impedito. Quindi la rivoluzione contro natura, secondo Alfano. Poi c'è anche Calderoli della Lega, che assicura che tutti quelli che hanno votato sì andranno all'inferno. Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore. Ciao Guido. Ciao, buonasera. Quindi questo era il clima, poi si è votato sì. Che impressione ne hai tratto tu da tutto questo lungo percorso così travagliato e dagli ultimi colpi, insomma, almeno per il momento, poi si passa alla Camera? Ma è stato un percorso certamente accidentato che ha dato vita a una grande discussione, a un confronto politico forte, diciamo, perché l'atteggiamento del Movimento 5 Stelle prima in una direzione e poi nell'altra ha comunque dato una scossa, diciamo, a questo tema. Però alla fine, se andiamo un po' all'osso del problema, vediamo che il Presidente del Consiglio ha portato a casa comunque una vittoria, e una vittoria politica e una legge che sulle unioni civili che prima l'Italia non aveva. Primo. Secondo, il contributo politico dei verdiniani si è dimostrato, come era, diciamo, nelle previsioni, decisivo nel ramo del Parlamento, dove i voti erano più incerti, cioè quello del Senato, e io non dico che la maggioranza si è allargata, però, diciamo, è stato fatto il secondo passo dopo il primo, che tra l'altro avevamo commentato proprio insieme nella tua trasmissione, cioè quando c'erano state le nomine nelle commissioni parlamentari, dove lì c'è stato il primo contributo dei verdiniani alla maggioranza. Adesso abbiamo fatto un passo successivo, diciamo, che si configura come una sorta di appoggio esterno politico, ma che rende, diciamo, da questo punto di vista Renzi più tranquillo dal punto di vista dei numeri politici al Senato, e questa non è una cosa che è una cosa importante dal punto di vista dei numeri e dal punto di vista della solidità di questo governo in questo momento, fatto salvo ovviamente sorprese e ripensamenti di qui a venire. Certo, c'è una tensione nel PD, all'interno del PD c'è un viene affiora adesso un problema identitario che viene messo in campo dalla sinistra del PD. Se non ricordo male, nel 2017 è previsto comunque un congresso, e lì, diciamo, ci sarà un po' una resa dei conti. Fino a questo momento ha molto tonato la sinistra del PD, però risultati veri, operativi, a casa non ne ha portati. Ecco, visto che l'hai citata, sentiamo la sinistra del PD attraverso Roberto Speranza. Ma è chiaro che il voto di fiducia è un voto che costruisce il perimetro della maggioranza. Io penso che sia un fatto molto grave, sia una scelta assolutamente sbagliata che non condivido e che tocca l'identità profonda del Partito Democratico. Il Partito Democratico è nato per essere cardine del centrosinistra. Giorno dopo giorno rischia di diventare altro. Questo per me non è accettabile, non si può più star zitti, ed è il momento che si faccia una discussione vera sull'identità del Partito Democratico. E l'identità del Partito Democratico si può decidere solo in un congresso, e io penso che a questo punto serva un congresso del Partito Democratico. Ma in ogni caso, Guido Gentili, che cos'è oggi il Partito Democratico secondo te? Ma cos'è il Partito Democratico? È un partito certamente di sinistra moderata, che fa un percorso diverso da quello che si poteva immaginare fino a qualche tempo fa, prima dell'ascesa di Renzi, con un segretario del partito e presidente del consiglio, e questo non dimentichiamolo mai, questo doppio incarico, che diciamo ha cercato prima con l'accordo con Forza Italia, il famoso accordo del Nazareno, poi naufragato in seguito alle elezioni della Presidenza della Repubblica, e adesso diciamo, attivando il contributo di una forza politica in uscita da Forza Italia, cioè i verdiniani, e ha tentato, diciamo, e per ora, diciamo, con successo, di allargare sostanzialmente il perimetro della maggioranza senza che questo si trasformi, e qui sta un po' il gioco e l'equilibrio difficile, un po' acrobatico, senza che questo si trasformi in un dato politico tale per cui, insomma, si debba considerare che esista una maggioranza totalmente nuova rispetto a quella che si era formata all'inizio del governo. Questo è un equilibrio ovviamente difficile, però in questo modo, fino a questo momento, diciamo, Renzi, anche grazie secondo me al comportamento del Movimento 5 Stelle, è riuscito da questo punto di vista a barcamenarsi su questo filo sottile, tenuto conto che i numeri del Senato sono quelli che sono, e cioè sono numeri che senza l'apporto di Verdini sono numeri che ballano e quindi dove lui può andare sotto. Quindi questo teniamolo sempre presente. Certo, poi come diceva alla fine un ascoltatore, alla fine il governo Renzi lo fa con Alfano perché non potrebbe sostenere in qualche modo anche Verdini, no? A proposito di chi dice che è contro natura questo rapporto, no? Rifacendosi alla frase di Alfano. Sì. Guido Gentili, ti ringrazio e ti auguro buon fine settimana. Grazie a voi. Ciao Guido, grazie. Ciao. Allora, ancora vediamo se c'è tempo per uno dei vostri messaggi. Paolo che scrive al 349-238-6666, il fine giustifica i mezzi per la legge sulle unioni civili, un successo per l'Italia mai sperato prima. Continuate sia i messaggi sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, ci ritroviamo a momenti. Sono Maria Latella e la domenica mattina finora potevamo incontrarci in TV. D'ora in poi invece ci troveremo anche su Radio 24, ogni domenica mattina alle 10. Per parlare di donne, perfette, imperfette, aspiranti alla perfezione e di come ci vedono gli uomini. Vi aspetto ogni domenica mattina alle 10 su Radio 24. Ascoltaci anche in Digital Radio. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Se state ascoltando Effetto Notte siete nel posto giusto, al momento giusto, con la conduttrice giusta naturalmente, Roberta Giordano, sempre con voi sino alle 22. Vedo una notizia che riguarda un grande italiano qui, un aggiornamento di pochi istanti fa. Ennio Morricone, secondo me il più grande compositore di colonne sonore, insomma questo è un punto di vista personale, entra nella Walk of Fame di Hollywood, sapete quella via dove si fanno le impronte e rimangono per sempre nella storia. Diciamo che se l'è meritato e vediamo anche come andranno gli Oscar domenica, se non gli danno un Oscar che non sia solo la carriera, insomma come si può evitare adesso che Ennio Morricone ha la sua età di dargli questo grande riconoscimento. Ma adesso vi ricordo tra pochissimo le notizie più importanti e anche vi leggo ancora qualche vostro messaggio al 349-238-6666, così sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Qualcuno mi dice come faccio a trovarlo, sembra ancora strano, basta che mettiate Effetto Notte trattino Roberta Giordano, andate su internet e su Google e lo trovate senza difficoltà. Andrea dice: Serracchiani, Verdini, Alfano hanno votato anche con Monti e Letta, vero? Ci ricordiamo quando hanno votato per la Fornero insieme al PD. Poi Roberto da Roma: da quando i DS sono diventati PD hanno perso il mio voto perché non ritrovo più una linea chiara di apertura all'avvenire, ovvero una sinistra moderna e autentica. Ora il PD non è né carne né pesce. Questo a proposito della richiesta di definire un'identità da parte della minoranza Dem dopo il sostegno di ieri dei verdiniani alla fiducia sulle unioni civili, che hanno un po' lacerato il Partito Democratico, perché dicono quelli della minoranza Dem alla fine che cosa siamo, appunto, ci allarghiamo senza confini o vogliamo ridefinire un po' i nostri confini, la nostra identità, il nostro perimetro di Partito Democratico. Continuate con i vostri messaggi, intanto vi ricordo che queste sono le notizie più importanti. Juncker a Roma, disgelo tra il Presidente della Commissione Europea e Renzi, intesa su flessibilità ai migranti, ma Bruxelles richiama l'Italia sul debito che pesa sulla competitività. L'omicidio di Regeni, secondo gli investigatori italiani, è stato ucciso per le sue ricerche da professionisti della tortura. Unioni civili, il sostegno di Verdini al governo lacera il PD, la minoranza Dem chiede un congresso del partito per definirne l'identità. Migranti, sale la tensione tra Grecia e Austria, ne parleremo tra pochissimo. Le elezioni in Iran, affluenza record, in gioco il futuro di Rouhani. E per il calcio, alla FIFA finisce l'era Blatter perché è stato nominato un nuovo presidente, Gianni Infantino. Saluto Matteo Villa, ricercatore dell'ISPI per l'area Europa, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Matteo Villa, buonasera. Buonasera a voi. Allora, parlavamo già ieri a proposito dell'emergenza immigrazione, della tensione tra Grecia e Austria, che in realtà è sempre più forte, perché dopo la decisione di escludere la Grecia dal vertice balcanico sulle migrazioni che si è tenuto a Vienna 2 giorni fa, il governo greco oggi ha rifiutato una visita della ministra austriaca dell'interno e ha detto non ci sarà, quindi un ulteriore segnale di chiusura questo, ha detto non ci sarà questa visita finché l'Austria continuerà a prendere delle decisioni unilaterali, perché sappiamo che l'Austria, a parte questo vertice in cui non ha invitato la Grecia, sta decidendo di mettere un tetto ai richiedenti asilo sul proprio territorio, ma anche ai soli transitanti attraverso l'Austria. Le autorità greche intanto stimano che ci siano circa 25.000 migranti attualmente presenti sul loro territorio, a questo si aggiungono 2-3.000 nuovi arrivi al giorno, e quindi la priorità della Commissione europea, che anche oggi ha ribadito Juncker, che era a Roma con Renzi, è di evitare che ci sia una crisi umanitaria in Grecia. È in questo momento, Matteo Villa, il paese più esposto? Sì, assolutamente sì. In Grecia anche quest'anno stanno arrivando decine di migliaia di persone e il flusso non si è fermato assolutamente, nonostante gli accordi supposti che si sarebbero presi con la Turchia. Sappiamo che il 7 marzo ci sarà un nuovo vertice tra i capi di Stato e di governo europei e la Turchia, probabilmente non ci saranno altri progressi, quindi la situazione in Grecia peggiora di ora in ora. Adesso sappiamo quali sono i problemi: l'arrivo, la fine dell'inverno e l'arrivo della bella stagione rischia di riportare numeri quasi disastrosi in Grecia, e con la chiusura delle frontiere o la limitazione del passaggio di persone in Macedonia e poi in Serbia e poi verso il nord, verso l'Austria, sarà molto difficile gestire la situazione. Tra l'altro questo rischia di creare una contraddizione incredibile, perché se vi ricordate qualche settimana fa il Consiglio di Giustizia Affari Interni aveva detto alla Grecia noi dobbiamo valutare, o meglio la Commissione ha detto noi dobbiamo valutare l'applicabilità di cosiddetto articolo 26, cioè vi diamo 3 mesi per riportare condizioni non degradanti in Grecia per i migranti, e poi vediamo cosa succede. Se entro maggio non avete preso le contromisure, noi dobbiamo chiudere le frontiere di Schengen per voi. Però il problema è che se i migranti non possono passare, l'abbiamo visto adesso al Pireo, ci sono decine di migliaia di persone, si sta cercando di ricollocare all'interno della Grecia le persone, pur di non farle stare nei campi profughi proprio lì vicino al confine macedone, dove per adesso non possono passare. Quindi la situazione di ora in ora si fa più drammatica e bisogna cercare di trovare soluzioni rapide. Tra l'altro l'ONU, il segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon, si è detto preoccupato proprio per questo blocco che c'è lungo la rotta balcanica, ha chiesto di nuovo la solidarietà che è prevista comunque dalle regole europee, però mi sembra che ci siano parecchi sordi, sì, in questo momento. Siamo lontanissimi da un accordo, abbiamo visto l'Austria non solo non ha coinvolto la Grecia, non ha coinvolto anche la Germania, e questo forse è ancora più grave, la spaccatura si sta aprendo. La Germania, a parte la paura della primavera, ha anche paura del grande euroscetticismo e della xenofobia che stanno formandosi nel paese. Abbiamo visto adesso il 13 marzo ci saranno elezioni regionali, o meglio dei Länder, stati federali tedeschi, 3 stati. In tutti e tre l'Alternative für Deutschland, cioè il partito xenofobo anti-euro, è almeno al 9% e in Sassonia al 15% secondo i sondaggi. Questa è una grande avanzata, e ovviamente la Merkel ha paura che tutta la sua politica di apertura, che adesso è comunque rimessa in discussione, le faccia perdere molto. La danneggi. Tra l'altro c'è da aggiungere che, notizia di oggi, circa 143.000 profughi, cioè il 13%, 1 su 8 di quelli arrivati nel 2015 in Germania, 1 su 8, sono scomparsi. Questa è la stima del Ministero dell'Interno tedesco, e non si capisce bene, insomma, se siano entrati un po' nel sottobosco della criminalità, o comunque sono sfuggiti al controllo. Quindi un ulteriore aspetto negativo, non solo per la Merkel, ma insomma in genere per questa politica della gestione dell'immigrazione. Grazie Matteo Villa dell'ISPI. Grazie a Matteo. Voi. Buon fine settimana. Viabilità. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme dopo pochi istanti con ancora i vostri messaggi al 349-238-6666, anche sulla pagina Facebook di Effetto Notte. A proposito della crisi di identità, c'è o non c'è del Partito Democratico, dice Angela, mi avvalgo della facoltà di non rispondere. E poi gli altri messaggi sul 349-238-6666, questo è per gli sms. Ci sono altri messaggi che riguardano non tutti i lusinghieri, le unioni civili. Poi Luisa da Roma dice: speranza maggioranza voleva la crisi e andare a casa. Dice che quella era l'unica alternativa, quella dei verdiniani che hanno sostenuto il governo. Adesso vi ricordo molto velocemente le notizie più importanti e poi andiamo sullo spazio europeo. Disgelo, come ne abbiamo appena parlato, tra Renzi e Juncker, intesa sulla flessibilità ai migranti, con il rapporto però di Bruxelles sugli squilibri macroeconomici che richiama l'Italia dicendo che il debito pesa sulla sua competitività e può anche contagiare l'eurozona. L'omicidio Regeni, ucciso per le sue ricerche da professionisti della tortura, così dice la Procura di Roma, e certifica che non c'è nessun legame con il 007 e neanche con la droga, non c'entra. Verdini lacera il PD, la minoranza del Partito Democratico all'attacco, dice serve un congresso, mentre la vice segretaria Serracchiani replica Speranza, Roberto Speranza, e come Movimento 5 Stelle insegue fantasmi. Migranti, allarme dell'Unione Europea, bisogna evitare una crisi umanitaria in Grecia, ce ne siamo appena occupati. E poi Iran che è al voto, non arrivano ancora aggiornamenti, comunque c'è stata folla ai seggi. Europa 24 notte. Nello spazio europeo abbiamo il nostro Enrico Pagliarini. Ciao caro Enrico. Buonasera a tutti. Che poi ritroverete naturalmente nel 2024, appena finisce qui Effetto Notte, alle 22. C'è una proposta della Commissione europea per la portabilità di contenuti audio e video nei vari stati. Che significa, Enrico? Cos'è? Allora, si parla molto di frontiere negli ultimi tempi, soprattutto in Europa, per le cronache che conosciamo. Paradossalmente noi siamo abituati ad una Europa dove le frontiere per le persone e per le merci non esistono più. Paradossalmente, per molte delle cose che noi ci scambiamo su internet, quindi per il mondo digitale, ci sono delle barriere ancora altissime. E questo sembra incredibile, perché uno dice, ma sembra come? Sembra una tale libertà. No? Esatto, internet dovrebbe essere confini. Una cosa. Allora, facciamo un esempio giusto per farci capire. Se tu sei abbonata ad una pay TV online, ad un servizio per vedere contenuti, parlo di video perché il video è quello un po' più, il terreno più spinoso, dove la negoziazione dei diritti sicuramente ha un valore molto, molto alto, viene fatta sulla base locale, su base di ogni stato, e ci sono dei vincoli molto forti, e un contenuto per cui i diritti sono stati venduti in un certo paese non può essere visto e utilizzato in un altro contenuto. Fammi un esempio, facciamo un esempio. Tu sei abbonato ad un servizio in Italia. Se domani io e te andiamo in Francia a fare un weekend insieme, proponimelo se vuoi. Esatto. Sì. Cosa succede? Noi apriamo il nostro tablet e vogliamo vedere il contenuto al quale noi siamo abbonati, per cui abbiamo pagato l'abbonamento. Il sistema riconosce che noi ci troviamo in un altro stato, visto che noi siamo abbonati a quel contenuto, ma molto probabilmente... Per esempio un telefilm, vuoi dire? Ad esempio un telefilm. Allora, molto spesso i contenuti sono stati venduti solo per quel paese, e quindi il sistema ci dice in questo paese purtroppo, anche se hai pagato, non puoi vedere il... Perché non valgono i diritti pagati dallo stato da cui vieni. Esattamente, esattamente. Allora, la Commissione europea, che sta cercando di creare una cosa che si chiama Digital Single Market, cioè un unico mercato digitale, siamo in Europa e uno dice in tutti i paesi dovrei fare le stesse cose, no? Allora, è una cosa un po' complicata quella che vorrebbe fare la Commissione europea, ci sono un sacco di regole da cambiare, un mercato veramente da cambiare, però la proposta è: facciamo in modo che ci sia una portabilità, cioè se tu ti sposti temporaneamente, questo è importante sottolineare, non ti trasferisci temporaneamente. No, non ti trasferisci, allora, temporaneamente in un altro paese, noi vogliamo che ti sia permessa la visione di quel contenuto. Ed è la stessa cosa, cioè il principio che la Commissione vorrebbe applicare a questa materia è la stessa che è stata utilizzata per il roaming telefonico. Se ne è parlato tantissimo. Allora, infatti, dovete sapere che dal prossimo anno, dalla metà di giugno del prossimo anno, il roaming non esisterà più, fino ad un certo punto, perché anche in quel caso roaming, cioè il pagare di più col telefonino, sì, quando sei all'estero. Facciamo lo stesso esempio, io vado in Francia col mio piano tariffario, ma vengo anch'io anche questa volta? Sì, anche tu, andiamo. E cosa succede? Che noi oggi ancora paghiamo una piccola sovrattassa che si chiama roaming quando noi siamo all'estero per telefonare. Questa cosa scomparirà dalla metà di giugno del prossimo anno, ma attenzione, ci sono gli asterischi. Scomparirà, ma con dei limiti temporali, cioè solo se temporaneamente io suono all'estero, perché poi potrebbe succedere che se fosse per sempre, cioè se il roaming fosse veramente stato cancellato per sempre, io potrei prendermi una SIM di un paese dove il costo della vita è molto più basso e fare una sorta di concorrenza sleale agli operatori locali. Interni. Esatto. È una cosa che può sembrare, cioè non sembra, è molto complicata effettivamente, però... riguarda la vita di tutti i giorni, perché noi, visto che ormai l'Europa è libera da frontiere, ci spostiamo in altri paesi. Non so fino a che punto hai visto dei muri, cioè, di cui, certo, parlavamo. Senti, certo, ma c'è però una buona possibilità che passi questa proposta? Sì, probabilmente questa parte sì. C'è tutto un altro capitolo di cui parleremo domattina alle 7:15 in uno specie, in un euro reportage che ho preparato, ho studiato molto questa settimana. Sì, lo vedo che sei. C'è tutto un altro capitolo che è il cosiddetto consumo transfrontaliero. Perché un conto è la portabilità dei contenuti, cioè io che vado all'estero per una vacanza o per lavoro, per qualche giorno, per qualche settimana, un altro conto è che io sempre, permanentemente, dal mio computer di casa, perché stiamo parlando di servizi online, su internet, dal mio computer di casa possa vedere un canale, ad esempio, a pagamento o anche non a pagamento, che ne so, tedesco, olandese, di un altro paese, perché magari mi interessano quei contenuti. Oggi in molti casi non ci viene in meno, non è possibile. Benissimo. Continuate a sentire. No, Enrico malissimo, Pagliari. Non benissimo. Benissimo, ma benissimo, nel senso che la prospettiva della Commissione Europea. Certo. Speriamo che la Commissione, insomma, riesca a fare qualche cosa. Enrico, in poi lo ritrovate direzione. Poi alla fine di Effetto Notte, grazie, quindi grazie. Non finisce qui. Ciao Enrico Pagliarini. Grazie a voi, grazie a voi. Europa 24 Notte. In collaborazione con Euronet Plus. Benissimo o malissimo, quello che ci dirà il nostro Paolo Corazzon di Trebimeteo, portatore sano di sole, però qui mi sa che il sole comincia a latitare, è vero Paolo? No, Corazzon? No, questo weekend farò fatica a darti soddisfazioni, purtroppo weekend di maltempo in molte zone, intanto buonasera Roberto, buonasera a tutti, weekend di maltempo in molte zone d'Italia e sarà il nord e il versante tirrenico, quindi Toscana, Lazio, Campania e anche l'Umbria e la Sardegna, insomma in queste zone piogge piuttosto insistenti, anzi in alcuni casi anche proprio di moderato forte intensità. Domenica probabilmente la giornata peggiore, perché è facile che ci svegliamo che sta piovendo e andiamo a letto che sta ancora piovendo, quindi davvero un weekend un po' delicato, con tanta neve tra l'altro sull'arco alpino, anche in alcuni casi vicino a un metro di neve nel corso delle 48 ore prossime, insomma weekend molto molto delicato da seguire con attenzione. E inoltre domenica, ti aggiungo, anche al sud, dove tutto sommato la situazione non sarà così male, però ci si metterà il vento, forti raffiche di scirocco con anche appunto intensità che potrebbero toccare i 100 km all'ora, quindi rischio di mareggiate, insomma dove ti giri ci sarà un sacco da di buone notizie. Vabbè. Grazie, grazie Paolo Corazzon, buon tempo a te comunque sia. Grazie, buon tempo a tutti, ciao Paolo. Ora invece il nostro Dario Ricci da Zurigo ci racconta di questa vittoria di Infantino. Ciao Dario. Ciao Roberto. Che non mi tutti. Sembra che fosse tanto nei pronostici, o mi sbaglio? Beh, era previsto un testa a testa con lo sceicco Al Khalifa, no? Lo sceicco del Bahrain. In realtà poi Infantino, avvocato italo-svizzero che parla 6-7 lingue, tant'è che oggi è anche salutato in soprattutto in italiano, no? Nella sua prolusione prima del voto, è riuscito al secondo scrutinio, già al secondo scrutinio, a catalizzare il voto degli altri candidati, proprio attirando quei voti che gli hanno permesso di superare il quorum e quindi di battere Al Khalifa, che era dato come il grande favorito. Insomma, segno probabilmente che già, insomma, gli asiatici, dai cinesi agli arabi, con i petrodollari e le risorse economiche, hanno già comprato buona parte del calcio mondiale ed europeo. Evidentemente il governo di questa FIFA, che prova a rinnovarsi, non se l'è sentita di affidare loro anche le chiavi della cassaforte e della baracca, insomma. Beh, che cosa ci puoi dire del suo profilo di Infantino, Dario? Beh, devo dire che è innanzitutto un personaggio affascinante, perché appunto già questo poliglottismo lo rende difficilmente attaccabile, ecco, insomma è sempre lui che comanda il gioco, forte preparazione tecnica in virtù della sua formazione avvocatizia e poi grande esperienza, perché molti lo avranno identificato come l'uomo dei sorteggi, perché è quello che è il gran cerimoniere spesso dei sorteggi dell'UEFA e della FIFA, che si aggira intorno a queste urne con le palline colorate, ma in realtà è stato fino ad oggi, fino all'elezione, segretario generale dell'UEFA, il braccio destro di Michel Platini. Ha detto pure che è comunque sempre in contatto con Platini, quindi in qualche modo è un riscatto, per quanto amaro, anche per Leroy, che vede il suo uomo di fiducia salire sullo scranno che fu di Blatter, altrettanto travolto dagli scandali di questi tempi. Grazie Dario Ricci da Zurigo. Ciao, grazie, buona continuazione. Roberta, ciao. Ciao Dario. Ancora qualche messaggio, faccio in tempo, tra la pagina Facebook di Effetto Notte, il 349-238-6666. Marina dice: lo stanno dicendo da ore i deputati e i senatori del PD che non hanno abbandonato per sempre il progetto sulle adozioni. Infatti pare che stiamo preparando questa proposta di legge. Basta, dice Marina, con l'inutili tali che lagne o italici insulti nei confronti di chi fa le cose. Quando qualcuno non fa niente o si occupa solo dei propri interessi, tutti si assopiscono. Questa direi potrebbe essere la chiosa. Clara da Roma poi dice: Renzi, l'uomo politico è colui che lavorando per il vostro bene ottiene il suo. Edward Jurist, l'importante insomma che diciamo le cose almeno siano reciproche, siano a largo raggio. Direi che a questo punto ci possiamo lasciare. C'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte per voi giorno e notte. Ci risentiamo per gli aggiornamenti alle 22:00.